Italia in controluce. Buongiorno ad Alessio Maurizi, eccoci all'appuntamento con i fatti della cronaca, grandi e piccoli, e i suoi protagonisti. Questa è l'Italia in controluce. Una storia che dura da mesi e che riguarda un polo produttivo dismesso. In una regione dove la disoccupazione è sopra il 13%, una delle peggiori in Italia, e quando si perde il lavoro trovarne un altro non è un'impresa facile. Parliamo della Vinyls di Porto Torres e dei suoi operai che hanno occupato l'ex carcere dell'Asinara, dando vita a quella che è stata fin da subito ribattezzata come l'isola dei cassa integrati, e dove quest'estate c'è stato un via vai di turisti. Valchiria Baldinelli. Sul battello che porta all'Asinara non c'è posto per stare seduti, ormai è meta di visita provenienti da tutto il mondo. In 80.000 sono sbarcati sull'isola dei cassa integrati in questi mesi estivi. Il manipolo dei lavoratori della Vinyls di Porto Torres ha raggiunto la prima meta, attirare cioè l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale per riottenere il posto di lavoro. Qui all'Asinara è invaso da persone che sono attenti al nostro problema, perché molti vengono dritti da noi, diciamo, per capire com'è la situazione e chiedono cosa possono fare per noi. Magari potremmo sembrare anche dei gradassi, però noi l'abbiamo raccontata anche a persone che sono venute dall'emisfero australe. Ci fa un enorme piacere questo. Allo stesso tempo però ci fa rabbia il fatto che qua in Italia, qui a due passi, chi ci deve dare le risposte non ce le dà. La visibilità mediatica è altissima, la clamorosa forma di protesta degli operai dell'azienda chimica in amministrazione controllata era iniziata in concomitanza con l'avvio dell'Isola dei Famosi, il reality targato Rai. Il 24 febbraio scorso sbarcarono all'Asinara, presero possesso delle sale dell'antico carcere, dando vita all'Isola dei Cassa Integrati, con lo slogan «L'unico reality vero, purtroppo». A sostenere la causa dei naufraghi del lavoro, raccontate in diretta su internet, ci sono migliaia di persone. I soli fans su Facebook sono oltre 104.000. Gli operai hanno il loro sito web nel quale raccontano le loro attività. È bello vedere che comunque c'è una sorta di collaborazione tra chi sta come e peggio di noi. Ci piacerebbe fare una Woodstock del lavoro. Noi questo lo vorremmo fare, lanciare l'urlo da qua, dall'isola. Sono trascorsi 6 mesi esatti dal famoso sbarco, uno dei più originali ai quali la Sardegna abbia mai assistito. L'avvertenza degli operai è ancora in alto mare, eppure la speranza e la grinta del gruppo dei facinorosi non si sono mai affievolite. Cos'è successo da quando il battello Sara D ha portato per la prima volta gli operai sull'isola dell'Asinara? Non è cambiato molto. In questi 6 mesi noi abbiamo fatto tanto, tantissimo, forse anche più di quello che pensiamo noi. Adesso è venuto il momento di prendere il prodotto di questa protesta e fare in modo che la politica, quella che dovrebbe essere l'opposizione, si faccia carico del nostro problema. Noi cosa abbiamo detto al governo? Nel momento in cui abbiamo saputo che ci sarebbe stato un nuovo bando di gara, dateci la possibilità di riavviare gli impianti, adesso nel periodo estivo, in maniera tale che si arrivi ad ottobre ad avere un impianto funzionante. Non ci è stata data la possibilità di farlo. La protesta dei 140 dipendenti della Vinyls sta vivendo un momento difficile. Condotta dall'avamposto della Torre Aragonese e dal carcere di Cala d'Oliva dell'Asinara, attendono ancora una risposta dal governo. Il problema non riguarda solo Porto Torres, ma il futuro dell'industria chimica italiana. Se è vero che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, perché qua si sta distruggendo il lavoro? Devo dire ai sindacati nazionali: molta più determinazione, ci vuole molta più forza. Siete i rappresentanti dei lavoratori. Che succederà a novembre, quando termineranno i sussidi della cassa integrazione? 400 euro, la cifra più alta percepita per permettere ai dipendenti di mantenere il loro contratto di lavoro in attesa del reintegro. Il nostro prodotto è il migliore del mondo, sottolineano, non riusciamo a capire il motivo della chiusura dello stabilimento. Ogni tanto una delegazione degli operai della fabbrica di PVC viene fatta evadere dai promotori di altre mobilitazioni isolane, perché, spiegano, l'unione fa la forza. Oppure vengono chiamati a raccontare la loro vicenda sui palchi delle manifestazioni culturali in Sardegna. A volte attraversano il mare anche per promuovere il loro libro. Il ricavato servirà per acquistare un endoscopio pediatrico per l'ospedale di Sassari.